mia donna, quante volte ci disturbiamo, quante volte ci disturbiamo. Non ti sei accorto che viaggiamo sulla stessa linea d'onda, quante volte ci disturbiamo, quante volte ci disturbiamo. Tutto va rispettato.